Ah. Eh sì, 51094 L57. Sappi, Ambra, che il soggetto vivente è mutilato e ormai è ridotto a un oggetto vivente e che la medicina uccide, per cui la malattia è soltanto un'azione-reazione dell'organismo per liberarsi da un eccesso di tossine accumulato per mancanza di energia vitale. Quindi la biogonia, che non necessita di nessuna terapia riabilitativa, quindi anche la medicina alternativa, rimangono inchiodate in questa dinamica repressiva. Allora ricorda che l'ambiente sociale porta ad essere sottoposti a costrizioni e indebolimenti che ci separano da una vita che sia degna di essere chiamata tale. E ammetti, a conclusione, per giunta fine, presto l'avvento di una società radicalmente nuova, sorta sulle macerie dell'economia, interromperà la sofferenza della morte lenta, i tormenti dell'angoscia, l'abbandono esistenziale, l'auto. Sappi, Ambra, la medicina uccide. Allora ricorda che a me sappi, Ambra, che è mutilato. Allora ricorda che a me ha compiuto che è uccido. Sappi, Ambra, ormai è rotto a un oggetto di pena. Il soggetto di pena. Presto, presto. Bene, praticamente, una società nuova, e per chiudere il contro partita, via, via, via, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, v